asciughi ogni lacrima. Buongiorno a te che sei proprio l'unica, l'unica capace di sconfiggere ogni male. Buongiorno a te che mi illumini l'anima, dai pensieri mi allontani, asciughi ogni lacrima. Buongiorno a te che sei proprio l'unica, l'unica capace di sconfiggere ogni male. A te ho sempre dato tutto quello che avevo, a te ho sempre dedicato ogni mio pensiero. A te che ti ho sempre messo al primo posto, prima di tutto lottando ad ogni costo. Per te non sai quanti sacrifici ho lottato e riportato cicatrici, giorni tristi e felici. Su di te ho messo le radici, ho calcolato ogni metro quadrato, sei il terreno dei miei sorrisi. Buongiorno a te che mi illumini l'anima, dai pensieri mi allontani, asciughi ogni lacrima. Buongiorno a te che sei proprio l'unica, l'unica capace di sconfiggere ogni male. Buongiorno a te che mi illumini l'anima, dai pensieri mi allontani, asciughi ogni lacrima. Buongiorno a te che sei proprio l'unica, l'unica capace di sconfiggere ogni male. Ascoltati, io ti ascolto sempre la mattina, per confondermi dai pensieri della notte prima. Tutti adesso ti vogliono avere, ma io ti posseggo da tempo. Ricordo ancora quelle sere quando la tua voce stava lì a consolarmi. Il tempo è passato veloce, ma sono qui ad amarti. Le tue forme, le tue frequenze, le tue onde e le tue varie differenze, le vibrazioni positive che sai dare sono soggettive, sei il bene per altri il male. Solo tu sei una linea di confine, l'obiettivo di un uomo che non sa come gli andrà a finire. Sei bellissima, ti chiami musica, mandi vibrazioni positive. Sei bellissima, sei proprio l'unica, ti voglio mia fino alla fine, fino alla fine. Buongiorno a te che mi illumini l'anima, dai pensieri mi allontani, asciughi ogni lacrima. Buongiorno a te che sei proprio l'unica, l'unica capace di sconfiggere ogni male. Buongiorno a te che mi illumini l'anima, dai pensieri mi allontani, asciughi ogni lacrima. Buongiorno a te che sei proprio l'unica, l'unica capace di sconfiggere ogni male.